in primo piano. Martedì 11 gennaio la scelta dei quotidiani prevale la Fiat, la decisione di puntare sul referendum tra 48 ore a Mirafiori. Fiat sale al 25% di Chrysler, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, più concentrato sulla scalata appunto di Fiat su Chrysler. Marcegaglia, Lingotto e Confindustria sulla stessa sponda. Ma poi vediamo il Corriere: Mirafiori pronti ad andarcene, questo marchionne, via se vince il no. La Stampa: Fiat sale in Chrysler al 25%, molte alternative a Mirafiori. Anche Repubblica: se vince il no la Fiat se ne va. Poi c'è Libero: perché lo vogliono morto, le minacce a Marchionne. C'è chi sceglie, come il Fatto Quotidiano, invece la decisione della Corte Costituzionale, oggi si riunisce sul legittimo impedimento, il giorno del giudizio, questo è il titolo. E poi la vicenda di Alemanno, sindaco di Roma, che ha azzerato la sua giunta per intero. Alemanno azzera la giunta, questa è l'apertura del Messaggero, mentre saluti romani per il manifesto e pena capitale, sullo sfondo c'è il Colosseo, questo per l'Unità. Questi titoli di apertura. Da cosa voglio partire come segnalazioni? Beh, voglio partire dal Corriere della Sera, pagina 29. Si parla di immigrazione, del flusso degli immigrati, il decreto flussi prevede l'arrivo di circa 100.000 nuovi immigrati sul territorio italiano. Immigrati a Venezia, stop della Caritas. È una vicenda molto interessante perché la Caritas ha consigliato uno stop ai flussi di immigrati. La motivazione: con la crisi di lavoro, i 100.000 nuovi arrivi previsti possono aprire un conflitto etnico. È una dichiarazione che farà molto discutere, perché, scrive Alessandra Mangerotti, non viene dal Veneto di Gentilini, non il Veneto delle piccole imprese, nemmeno il Veneto della CGIL di Treviso, che in più occasioni ha frenato sui nuovi ingressi, ma questa volta è la Caritas di Venezia con il suo direttore Don Pistolato a dire attenzione, no al decreto flussi, perché una situazione economica pesante come questa porterebbe con l'ingresso di nuovi stranieri che rischierebbe di appesantire una situazione già difficile. Si chiede Don Pistolato: le imprese agricole chiedono nuova forza lavoro? Non mi risulta. Le industrie chiedono nuova forza lavoro? Non mi risulta. Mi risulta invece che la situazione nei dormitori, nelle mense, sia diventata insostenibile, che là dove manca lavoro ci siano già i primi segnali di conflitto. E dunque ecco questo allarme della Caritas Venezia. Attenzione, il suo direttore Don Pistolato dice con i nuovi ingressi si rischia di creare un conflitto etnico vero e proprio, e dunque forse sarebbe meglio non far entrare nuovi stranieri. È un tema che abbiamo già toccato in passato. Mentre dovremmo tutti dare la palma, l'Oscar della genialità a questo professore inglese, e voglio andare alla seconda segnalazione, la troviamo sulla Stampa, pagina 23. Il professor Brian Miller ha trovato un modo per contrastare il terribile, ansiogeno, a volte insopportabile suono del trapano del dentista. Trapano, non farai più paura. È stato inventato in Gran Bretagna questo sistema per contrastare quello che è considerato uno dei suoni più ansiogeni per tutti i pazienti che vanno dal dentista. Molti evitano di andare dal dentista per il terrore del rumore del trapano, anche se ormai il trapano è uno strumento talmente raffinato, come scrive Piero Bianucci, che fa soltanto il solletico. Ormai c'è l'anestesia anche per solo toccare un molare. Sta di fatto che però è uno dei suoni più ansiogeni. Allora il professor Brian Miller che cosa ha inventato? Ha inventato un sistema per immettere nelle orecchie del paziente delle onde leggermente sfasate, in modo da produrre quella che in fisica si chiama l'interferenza distruttiva, per cui suono più suono in controfase uguale silenzio. Si mettono delle cuffiette con dei suoni in controfase rispetto a quello del trapano nel paziente. Il paziente non sente nulla, o meglio, non sente il suono del trapano, che viene azzerato, ma continua a sentire il dentista che gli dice: apra la bocca, si sposti a destra un po' di più, chiuda di qui. E così il trapano è annullato. Vabbè, trapano, non farai più paura dal dentista. Tra 48 ore si voterà nello stabilimento di Mirafiori per quel che riguarda la Fiat sulla proposta di Marchionne, dell'amministratore delegato, già respinta dalla FIOM, i duri dei metalmeccanici, mentre accolta dagli altri sindacati. Questa è la scelta un po' di apertura dei vari giornali. Come detto, il Sole 24 Ore apre su Fiat che sale al 25% di Chrysler, mentre c'è chi mette in prima pagina le frasi di Marchionne di ieri al Salone dell'Auto di Detroit. Mirafiori pronti ad andarcene, questo per esempio è il titolo di apertura del Corriere della Sera. All'interno, a pagina 2, c'è Marchionne, qualche battuta, paura per le minacce, le stelle 5 punte. No, certo, non fa piacere, ma non è una questione personale, è una vicenda che denota mancanza di civiltà. E con Marchionne che dice: non mi inquinate certo col vostro pessimismo, rivolto ai giornalisti, con le domande pessimistiche, non mi inquinate certo l'ottimismo che invece qui c'è, ci vuole tempo. E poi dice, certo, questa frase: ci sono tante alternative a Mirafiori se dovesse vincere il no al referendum. Marco Ferrando del Sole 24 Ore, a pagina 5, va a tastare un po' il polso di quelli che sono gli operai. Ieri si sono presentati a Mirafiori i 2000 addetti della Mito. Ovviamente ci sono timori, incertezze, tra le donne in genere prevalgono i sì, questo almeno sentendo un po' i pareri fuori dai cancelli della fabbrica. Gli giovani sono quelli più indecisi, tra l'altro sul Sole 24 Ore, perché spesso si parla anche di referendum, non referendum, ma di cosa si tratti in realtà. Sul Sole 24 Ore, a pagina 5, ci sono appunto le domande e risposte, cioè quali sono i punti salienti dell'accordo per Mirafiori, cosa è la proposta di Marchionne sullo straordinario, le pause, l'organizzazione del lavoro, l'assenteismo, come cambia l'orario di lavoro, quello su cui insomma dovranno decidere i dipendenti della Fiat. Ieri il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, era tra gli ospiti di Porta a Porta. Confindustria Fiat sulla stessa sponda, così ha detto Marcegaglia, lo troviamo a pagina 3 del Sole con Nicoletta Picchio. Ha definito un accordo importante che non lede i diritti dei lavoratori questo referendum. E poi, rivolta a Giorgia Iraudo, vale a dire il segretario nazionale della FIOM e responsabile dell'auto, ha chiesto: se malauguratamente, spero non accada, dovessero vincere i no, quale sarebbe il piano B della FIOM? Si perderebbe l'auto a Torino e l'occupazione. Ma certo, è questo il fronte decisivo, vale a dire la FIOM, con il suo segretario Maurizio Landini, che sottolinea ancora il Corriere a pagina 3, continua a manifestare ottimismo, la partita si può vincere, con toni trionfalistici. Per la verità, scrive Enrico Marro sul Corriere, non sono condivisi neppure dalla CGIL, e tra l'altro si apre anche un fronte nel Partito Democratico, perché il Partito Democratico in pratica ha detto la FIOM si rispetti poi il voto che verrà, mentre il capo della FIOM Maurizio Landini suona la carica e sostiene che la partita di Mirafiori può ancora essere vinta. Con il Corriere che da Detroit intervista anche qualche battuta, pagina 5, il presidente della Fiat John Elkann, che dice: cresciamo all'estero per essere più solidi in Italia. Sta di fatto che questo, mancano 48 ore, vedremo. C'è anche in prima pagina di Libero invece Maurizio Belpietro, molto molto netto, come la scelta editoriale sempre di Libero: perché lo vogliono morto, questo è il titolo riferito a Marchionne, con le minacce, le stelle a 5 punte che sono rispuntate gli scorsi giorni. Scrive Belpietro: sì, lo so, c'è sempre qualche pirla dalla bomboletta facile che per passare il tempo disegna stelle a 5 punte sui muri, aggiungendo magari anche un corredo di minacce contro l'antipatico del momento. Se però alla scritta si somma un clima dei più incanagliti, con qualche scontro in piazza, qualche bombetta qua e là, capirete che non c'è da stare allegri. Insomma, scrive Belpietro, gli avvertimenti a Marchionne, per quel che mi riguarda, sono tutt'altro che da sottovalutare. Questo per quel che riguarda la Fiat, sullo sfondo diciamo della politica, che per la verità oggi dai giornali offre davvero pochissimo. Quello che offre di più in realtà è che è tutto congelato in attesa del legittimo impedimento. Oggi si riunisce la Corte Costituzionale, i 15 giudici. Giovedì ci sarà il verdetto, come racconta Donatella Stasio a pagina 17 del Sole 24 Ore, sotto il titolo «Test per il legittimo impedimento». Una decisione che si profila con una spaccatura dei 15 giudici. Alla vigilia 6 giudici erano a favore della legge, 7 per la bocciatura, 2 gli incerti. Si giocherà sul filo della decisione, ma troviamo un po' su tutti i giornali quello che già ieri anticipava il Sole, cioè chi sono i 15 giudici. Oggi per esempio il profilo lo trovate sul Corriere a pagina 12, ecco i 15 giudici, in genere la mediazione. Si parla anche qui nell'articolo di Maria Antonietta Calabro di una decisione in bilico. Tra l'altro la stessa Corte Costituzionale che oggi farà la riunione, l'udienza pubblica sul legittimo impedimento, domani dovrà decidere sull'ammissibilità di 6 referendum, e tra questi 6 referendum una delle prove referendarie riguarda proprio la richiesta di abrogazione popolare del legittimo impedimento. Tra l'altro però su questo del legittimo impedimento, su cui il Fatto Quotidiano per esempio ci apre mettendo il titolo di prima pagina Il giorno del giudizio, con pagina 2 e 3. Berlusconi è un cittadino come gli altri? Questo si chiede il Fatto Quotidiano oggi alla Consulta al legittimo impedimento. Però il retroscena, secondo me, più interessante lo troviamo sia sul Giornale che sull'Unità, ed è abbastanza clamoroso, perché andiamo a leggere il Giornale a pagina 3. La beffa. E se fossero i giudici a salvare Silvio? Mentre l'Unità la presenta così: Berlusconi salvato dalla prescrizione? Allora, il giallo è questo, ma non è neanche un giallo, è abbastanza tutto spiegato bene. E vale a dire, racconta Luca Fazzo, per esempio, sul Giornale: piccolo paradosso, a cancellare i processi a Berlusconi facendo sprofondare nelle sabbie mobili della prescrizione saranno alla fine le legittime, umane aspirazioni di carriera dei giudici che li stanno celebrando. Cioè, se la Corte Costituzionale dovesse dare anche il via libera alla ripartenza dei processi milanesi, dunque dovesse bocciare il legittimo impedimento, scrive Luca Fazzo, questi processi potrebbero, nei quali è imputato Berlusconi, potrebbero comunque andare a morire. Questo perché? Perché nel frattempo i giudici che facevano parte dei processi di Berlusconi hanno chiesto e ottenuto il trasferimento. Risultato: bisogna azzerare tutto e ripartire. Ecco allora spiegato Edoardo Davossa, per esempio, presidente del collegio che stava processando Berlusconi per la vicenda dei diritti TV di Mediaset. Nel frattempo è stato è stato promosso a presidente del Tribunale di La Spezia. Oppure Francesca Vitale, che è presidente del processo per la corruzione dell'avvocato inglese David Mills. Nel frattempo ha ottenuto l'agognata nomina in corte d'appello. E quindi le toghe che processano Berlusconi, scrive Luca Fazzo, chiedono e ottengono promozioni e trasferimenti. I procedimenti contro il premier ripartiranno dunque da zero. Dunque stiamo forse discutendo del nulla, nel senso che anche ci fosse il legittimo impedimento bocciato e quindi respinto, e quindi dovessero ripartire i processi, questi processi dovrebbero ripartire da zero, perché alcuni giudici hanno chiesto e ottenuto trasferimenti, e dunque ripartendo da zero si rischierebbe si potrebbe andare in prescrizione con i processi. Anche l'Unità con Claudia Fusani: tutti e tre i processi milanesi congelati da Lodi e Scudi cominceranno da capo perché sono cambiati i collegi. E dunque c'è la possibilità della prescrizione comunque. Avete visto. Per quel che riguarda la politica, come detto, ieri ha fatto un po' scalpore questa intervista di Casini che leggevamo al Corriere, che ha offerto questa sorta di patto con Berlusconi. Ci sono le reazioni: Berlusconi che apprezza Casini, un segnale positivo. Ma in realtà l'elemento politico della settimana, questo da leggere i giornali, è l'incontro che ci sarà giovedì tra Berlusconi e Tremonti. Se avete seguito durante le vacanze di Natale, si è parlato di rapporti sempre più tesi, con Berlusconi che chiede a Tremonti di allargare un po' i cordoni della borsa al Ministero del Tesoro, perché ci vogliono un po' di soldi per dare un po' di respiro all'economia. È un Tremonti sempre molto attento invece da questo punto di vista. Ecco qui allora il pressing su Tremonti per qualche euro in più. Amedeo La Mattina, a pagina 6 della Stampa: giovedì ci sarà il giorno dell'incontro tra Tremonti e Berlusconi, rigore e sviluppo per il Presidente del Consiglio sono due facce della stessa medaglia, per cui è necessaria una certa generosità da parte di Via 20 Settembre. Ma Tremonti è scettico, non vede un orizzonte politico chiaro, sa che l'allargamento all'UDC ha un costo che l'Italia non può permettersi. E anche il Foglio in prima pagina mette questo incontro tra il PDL e Casini, c'è un Tremonti da scalare. Il Presidente del Consiglio incontrerà questa settimana il suo ministro all'economia e da qualche tempo taciturno, forse un po' immusonito. Nell'agenda di Berlusconi il colloquio privato con Tremonti è importante, delicato, almeno quanto l'attesa sentenza della Corte Costituzionale sul legittimo impedimento o il voto di sfiducia a Bondi. Perché, scrive il Foglio, per stringere la mano a Pier Ferdinando Casini il Cavaliere ha bisogno di poter contare sulla collaborazione di Tremonti. E dunque ecco qui sempre il nodo Berlusconi-Tremonti. Insomma, la notizia politica del giorno rischia di diventare davvero quello che si vociferava da tempo e che ormai sembra sempre più concreto, vale a dire Berlusconi vuole cambiare il nome del suo partito. Quale sarebbe il nome scelto secondo le indiscrezioni? Italia. Da Forza Italia a Italia. Tanto che Gramellini, il Buongiorno, sulla Stampa, Italia senza Forza. Il nuovo partito dell'eterno Berlusconi potrebbe chiamarsi come una canzone di Mino Reitano, Italia. Il sublime venditore di pacchi elettorali accarezza un'idea mai osata prima da nessun condottiero, neanche Napoleone e Alessandro Magno. Appropriarsi del logo della nazione, una mossa geniale, secondo gli esperti di marketing. Come si chiameranno i suoi adepti? Italiani, e che gli altri si arrangino. Per i leghisti del nord e i neoborbonici del sud cambiare nome non sarebbe un problema, semmai un onore. Restano le minoranze, quelli che votano il terzo polo, quelli che votano a sinistra, anche se non hanno ancora capito, per esempio, che cos'è il terzo polo. In che modo ribattezzarli nel momento in cui un partito, cioè una parte, assume su di sé la rappresentanza del tutto? Berlusconi, una mezza proposta, ce l'avrebbe. Anti-italiani. Alemanno azzera la giunta. Questo è il titolo di apertura del Messaggero, ma la vicenda la troviamo su tutti i giornali, una vicenda abbastanza clamorosa. Ieri il sindaco di Roma, tra l'altro nel sondaggio che ieri leggevamo del Sole 24 Ore sul consenso dei politici locali, Alemanno, il sindaco di Roma, era crollato nell'ultimo anno. E poi dopo la vicenda delle accuse di parentopoli, le assunzioni nelle aziende municipalizzate, ecco qui la decisione di Alemanno di azzerare la giunta, una mossa molto forte anche per il Corriere della Sera, lo strappo di Alemanno a Roma, cambio tutto, nuova giunta. E ovviamente sul Messaggero a pagina 3 ora ci sono le totonomine, e chi per esempio rischia è sicuramente, secondo il Messaggero, l'assessore alla mobilità attuale, sospeso come tutti, Sergio Marchi, situazione disperata. È un fedelissimo di Alemanno, la sua sostituzione non va concertata con nessuno, ma è quello più impelagato nella bufera di Parentopoli, soprattutto è quello che non è riuscito a dare un concreto cambio di rotta al complesso sistema di mobilità romano. Ma, racconta Davide Desario, in realtà sono tutti sospesi a questo punto, i nomi dei bocciati si rincorrono, i telefoni sono incandescenti, perché nel giro di 3 giorni Alemanno ha detto cambio tutto e faccio le nuove nomine. L'opposizione accusa, dice, si deve dimettere, è una mossa disperata. Sia l'Unità che il Manifesto titolano su questo in prima pagina. C'è anche la vignetta di Staino sull'Unità, pagina 3. Alemanno ha azzerato la giunta, finalmente gente nuova con tanti parenti ancora da sistemare. Molto graffiante. Concita De Gregorio, il direttore dell'Unità, lo definisce il peggior sindaco Alemanno, il sindaco di Roma, mentre il retroscena su chi potrebbe essere il salvatore di Alemanno c'è su Repubblica. Giovanna Vitale, eccolo qua, patto tra il sindaco e Berlusconi, il vice può essere Bertolaso, potrebbe essere lui. Bertolaso, Guido Bertolaso, l'asso da calare a cui verrebbe assegnato il ruolo di vice sindaco in attesa di conquistare nel 2013 il colle più alto della politica romana, cioè cominciare a mettere Bertolaso vice sindaco in attesa di poi candidarlo a sindaco nel 2013, anche perché, scrive Repubblica, c'è un sondaggio segreto commissionato da Alemanno e planato giusto ieri sulla sua scrivania che misura il gradimento dei romani nei confronti dell'attuale sindaco e del presidente della provincia di Roma, Nicola Zingaretti, che è indicato nel PD come l'unico alla successione del 2013. Ebbene, allo stato attuale, secondo questo sondaggio di cui scrive Repubblica, Alemanno sarebbe al 42%, mentre Zingaretti al 58%, un'autentica debacle per il PDL, per uno dei suoi uomini di punta, una roba da spezzare qualsiasi carriera, ed ecco allora che questo anche, secondo Repubblica, sarebbe alla radice e il motivo per cui Alemanno si è spinto a fare questa mossa molto molto forte di azzerare tutto. Vabbè, come vedete non ho dedicato, anche se trovate sui giornali, mezzo secondo, e non lo farò, a Borghezio, che ha detto i terremotati d'Abruzzo sono un peso morto. Gli ho dedicato anche 3 secondi, 2 sicuramente erano di troppo. Passiamo alla vicenda che troviamo su tutti i giornali invece, su quello che ha detto il Papa ieri, perché ha creato un dibattito ricevendo gli ambasciatori del Vaticano nel mondo, i nunzi apostolici anzi, che ha detto Papa Benedetto XVI, ha parlato di educazione sessuale, un'educazione sessuale che in alcuni paesi, corsi di educazione sessuale a scuola, sono contro la fede, almeno così lo traduce Repubblica. In realtà il discorso è stato un po' più complesso. Un'educazione sessuale in alcune scuole, i corsi di educazione sessuale che certo non sono a favore della fede. E questo ha scatenato un dibattito. Per esempio, viene intervistato su Repubblica il professor Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, che dice: che profonda delusione questo discorso del Papa, non parla delle cose di cui deve parlare, si perde in cose che non contano niente, che parli piuttosto dello scandalo di questo mondo, degli immigrati che annegano, delle guerre, che parli dello scandalo di una generazione che sta naufragando col 50% di disoccupazione giovanile, che parli dei grandi drammi dal punto di vista della sua testimonianza di fede. Non so proprio a cosa si riferisca quando parla di educazione sessuale nelle scuole. So che un minimo di educazione sessuale nelle scuole sarebbe tutt'altro che un male. Di tutt'altro parere invece Giuliano Ferrara, che viene intervistato sulla Stampa da Giacomo Galeazzi, il vaticanista della Stampa, sotto il titolo «Il Papa attacca l'educazione sessuale in alcuni paesi europei è un'altra minaccia alla libertà religiosa delle famiglie», e Giuliano Ferrara dice: io da laico applaudo questa denuncia, questi corsi obbligatori nelle scuole sono una delle bandiere della stupidità occidentale, non parlo a difesa della fede come fa il Papa, diversamente da lui non ho alle spalle 2000 anni di ragione, però mi solleva sentirlo denunciare la sconcezza asettica e obbrobriosa dell'educazione sessuale obbligatoria. Così il direttore del Foglio, Giuliano Ferrara. Sulla Stampa, a questo proposito, è graffiantissimo Iena, a pagina 3, sesso. Ma perché il Papa parla di cose che non conosce? Io vi ricordo il tema del nostro sondaggio. Noi parliamo di divorzio. In Gran Bretagna arriva questa annunciata, questa tassa, una tassa per i coniugi che hanno figli e che decidono di divorziare, perché questo comporta delle spese, spese che lo Stato affronta, per esempio per gli assistenti sociali, laddove l'affidamento dei figli è conteso, non è condiviso, eccetera. E quindi lo Stato dice: basta, se volete divorziare e create dunque un problema anche alle casse dello Stato, dovete pagare, cari genitori. E su questo io voglio ricordare che tra l'altro c'è Avvenire, a pagina 2, uno dei consueti editoriali di Avvenire, Giuseppe Anzani: quell'ipotetica tassa sul divorzio e la dura e fallimentare realtà. Avvenire, per la verità, critica questa tassa, dice: far conto che sia una tassa, far rimontare la china di un costume sociale, quello dei divorzi, è puerile. Se oggi serpeggia il senso di una misura colma circa il degrado della relazione familiare, perché emerge da infinite ricerche che un'alleanza di vita non può reggere su puro volontarismo emozionale, in equivalenza tra l'unione e l'abbandono. L'amore è una cosa diversa, è promessa e dono totale. Altro che tasse, è il soccorso e la prevenzione ciò che manca. Insomma, questa idea del governo inglese che sta meditando di mettere una tassa sul divorzio fa drizzare le orecchie non solo agli economisti in questo periodo drammatico di crisi mondiale, ma anche ai sociologi del diritto per la scossa provocatoria che vi si contiene. Così Giuseppe Anzani su Avvenire. Comunque la pensiate, votate il nostro sondaggio, ne parleremo alle 8:30, votate su radio24.it, dopo il GR noi ci ritroveremo. Che devo dire? Sì, vi lascio col titolo della Gazzetta dello Sport: Messi? No! Chissà perché ha sconvolto tutti questo pallone d'oro per il secondo anno consecutivo dato a Messi. Certo, quest'anno è stato più deludente dell'anno scorso, il giocatore argentino, però ha vinto per il secondo anno consecutivo il pallone d'oro, non è stato dato a quelli che hanno vinto il mondiale, gli spagnoli, Iniesta, Xavi, insomma ha vinto Messi il pallone d'oro, è stato giudicato così. Vabbè, Messi no, questo è il titolo del disperato quasi della Gazzetta dello Sport, il GR.